tasche, se davvero pensi che non si possa risparmiare, e bucati il cervello, se davvero pensi che non si possa più sperare. Non voltarti indietro, non potresti più vedere quelle orme che hai lasciato, le ha cancellate il vento e tu non l'hai nemmeno ringraziato. Sono il tuo nemico, se hai bisogno di pensare che qualcuno ti fa schifo, e chiamami fratello, se una luce bianca illumina il tuo viso. Vendimi il tuo sonno, perché io non possa più solo sognare ad occhi aperti, e riprenditelo indietro, perché possa stare sveglio ogni minuto per vederti. Che non muoia il giorno, perché possa stare sveglio al tuo ritorno.